attualmente è il re, e nessuno penso che lo farà abdicare tanto facilmente. Diciamo che cosa sono? Un anno e mezzo, due, che alle gare importanti io gli arrivo davanti, e adesso in quest'ultimo periodo, con appunto gli assoluti anche che ho fatto in questi giorni, ma battuto lui questa volta, ma ci sta. Cioè, anche se ha 30 anni non è più un giovane, comunque bisogna sempre ricordarsi che è Filippo Magnini, uno che ha vinto due volte il campionato del mondo nella gara regina dei 100 metri stile libero, quindi non è il primo arrivato, anzi, e a me basta già essere definito principe, perché è già un grandissimo onore, e penso che insomma re non lo sarò mai, perché il re verrà sempre visto Filippo come immagine. Io diventerò qualcos'altro, anche perché sono comunque diverso da lui.